24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, le 7:20 minuti, siamo qui, la nostra mail 24 mattino è radio24.it, ci trovate anche come 24 mattino sulla pagina Facebook con il nostro Peter Bescapè in regia. Allora, di cosa parleremo oggi? Intanto avremo alle 8:20 per l'attualità politica il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega, nostro ospite, e poi parleremo della vicenda che ha coinvolto il gesto di Lucio Magri, fondatore del Manifesto, che è andato in Svizzera per finire la propria vita con un suicidio assistito. Questo è il termine tecnico, ha rilanciato il dibattito sul diritto di scegliere se e quando e se sia lecito terminare la propria vita. Di questo parleremo alle 8:30. Ora però i giornali in edicola. È mercoledì 30 novembre, i quotidiani aprono quasi tutti sul tema pensioni. Pensioni di anzianità avanza alla stretta, così il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, si andrà in pensione più tardi. Repubblica, arriva la stretta sulle pensioni. Il Giornale, tocca le pensioni, era ora. La Stampa, una manovra da 25 miliardi. Per Libero, tassano anche la paghetta. Il fisco entra in famiglia. Il Messaggero, pensioni stretta sull'anzianità. Il Fatto Quotidiano, Monti, massima trasparenza, ma ci sono impresentabili, sul conflitto di interessi dei ministri e sottosegretari. Il Manifesto titola, come era comprensibile, Lucio in the Sky, ed è il titolo con la foto di Lucio Magri e la vicenda di cui parleremo anche noi. Mi voglio però tuffare, le segnalazioni sono tante dai giornali, intanto su piccole beghe, piccole grandi beghe che coinvolgono alcuni membri del governo Monti che sono stati eletti, sono stati nominati ieri. Intanto la vicenda del neo ministro alla funzione pubblica, Patroni Griffi e i due incarichi, scelta del Parlamento. Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera lo intervista, pagina 11, sulla vicenda che lui dice: ho capito all'inizio dell'intervista, le assicuro che è tutto in regola. Beh, non si direbbe, ministro, nel decreto mille proroghe del dicembre 2010 ci sarebbe una norma fatta su misura per lei, praticamente una norma ad personam. Questa è una fissazione di Ichino, è la risposta del ministro. No, guardi, allora, il decreto contiene una disposizione, chiede Roncone, che consente ai membri della CiVIT, cioè l'autorità antifannulloni di cui lei fa parte, di restare in ruolo pur essendo presidente di sezione del Consiglio di Stato, come lei. Allora, mi ascolti bene, risponde il ministro, premesso che parliamo di una norma approvata dal Parlamento e non dal sottoscritto. Mi scusi, ministro, lei ha due incarichi e due stipendi, è così? Sì o no? Non è così. Le spiego, il cumulo era previsto già dalla precedente normativa, tanto che già cumulavo legittimamente la retribuzione da consigliere all'indennità di membro della CiVIT senza svolgere attività lavorativa al Consiglio di Stato. Ah, già cumulava? Chiede Roncone. Cumulavo, non accumulavo. Detto questo, al massimo possiamo affermare che la norma del mille proroghe cui lei fa riferimento mi ha consentito di cumulare i lavori a retribuzione, come dire, invariata. Soddisfatto? Io Alessandro Milan, non ho ancora capito se prende due stipendi oppure no. Comunque Roncone dice, con rispetto dovuto, no, non sono soddisfatto, è una norma su misura per lei. Su misura, risponde il ministro. È l'unico ad usufruirne lei, ministro? Sì, sono l'unico, ma solo perché il presidente della CiVIT, Antonio Martone, è ora pensionato. Non fosse stato in pensione, avrebbe goduto di questa norma anche lui, quindi in due. Antonio Martone è per caso il papà di Michel Martone, il nuovo viceministro del welfare? Sì, ma che c'entra? Risponde il ministro. No, così. Sì, sono padre e figlio. E allora? Ecco, questa è l'intervista sulla vicenda Patroni, Griffi e due incarichi. Il Libero in realtà è ancora più duro. I tre stipendi di Griffi, cioè da un giornale all'altro ha già accumulato, pare, un altro stipendio. A pagina 7 di Libero secondo Libero appunto sono tre gli stipendi di Patrone Griffi, come presidente di sezione del Consiglio di Stato, 130.000 euro, poi 150.000 euro della Civit, appunto questo comitato di valutazione del Ministero della Funzione Pubblica, e poi c'è anche ora l'incarico da ministro con 177.000 euro, per un totale di 457.000 euro l'anno lordi. Ma non so se lì se potrà accumularli o accumularli tutti e tre. E poi c'è un giallo, ragazzi, questo è un vero e proprio giallo all'interno del ministero del governo, cioè hanno nominato un sottosegretario ma non si sa ancora chi sia. Ebbene sì, voi dite no, com'è possibile? Ieri c'è stato un giallo riguardo alla nomina del sottosegretario alle politiche agricole, Franco Braga o Francesco Braga, perché sono due persone diverse. E su questo si è innestato un giallo talmente clamoroso, per cui non si sa ancora chi dei due sia il sottosegretario. Francesco Braga, docente all'Università di Guelph, incaricato alla Cattolica e attualmente in Canada, che risponde al Corriere: io sottosegretario? Al momento no, ma in effetti dovrei essere io, ma la situazione è fluida. Il Fatto Quotidiano lo mette a pagina 2, Braga lui o Braga l'altro? La nomina indovinello. Questo è. Quindi Francesco Braga, che è in Canada, e il ministro alle politiche agricole Catania ha detto alla nomina sì, è Francesco Braga, un esperto che lavora ora negli Stati Uniti o comunque in Nord America. Oppure invece è Franco Braga, docente di tecnica della costruzione alla Sapienza e presidente dell'Associazione di Ingegneria Sismica. Perché pare che sia questo Franco Braga e non quel Francesco Braga in Canada. Però quel Francesco Braga in Canada ora rivendica tutto con una mail. Dice: mi hanno contattato dal ministero e mi hanno detto di mettermi in contatto al più presto con Roma, quindi dovrei essere io il sottosegretario. Poi però in giornata pare che gli abbiano detto: no, guardi, scusi, c'è stato un errore, noi cercavamo Franco Braga. E ora quel Francesco Braga dal Canada dice: sono imbarazzato, sono un italiano orgoglioso ma addolorato. A un certo punto ho chiamato, ho chiesto se ero io il sottosegretario, avevo visto la mia foto sui siti. E loro che le hanno detto? Sì, fino a un'ora fa era lei, ma ora abbiamo qualche dubbio. Le faremo sapere. Ma io che gli dico qui in Canada a quelli del mio dipartimento, che sono stato sottosegretario per qualche ora con la foto sui siti? Francesco Braga pare sia stato sottosegretario per sbaglio, invece cercavano Franco Braga, pare che sia lui Franco Braga, docente a Roma. Conclude il Fatto Quotidiano: forse ha fatto meglio di tutti nel suo gesto il neo sottosegretario Ruperto, che ha stretto la mano Monti al momento del giuramento, ha rivolto uno sguardo al cielo e si è fatto il segno della croce. 24 mattino. Eccoci alle 7:33 minuti. Pensate alla disperazione del professor Francesco Braga, sottosegretario per qualche ora con tanto di foto su internet, sul sito, e poi dal Canada ha ricevuto anche una mail di convocazione, mi hanno detto poi ci siamo sbagliati, cercavamo un suo quasi omonimo, Franco Braga, non lei. Vabbè, insomma, come detto, tutti i giornali aprono sul tema delle pensioni. Questa notizia che trovate più diffusa, la stretta, le pensioni di anzianità, tutti i dettagli li trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore con Davide Colombo e Marco Rogari, che spiegano quella che è la riforma. La data fissata, lo sapete, è il 5 dicembre, lunedì prossimo, in cui Monti, il governo, svelerà un po' tutte le varie misure previste per cercare il pareggio di bilancio al 2013 e rispondere alle richieste dell'Unione Europea. Aumento di 1-2 punti delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi e possibile stretta immediata sui pensionamenti di anzianità ancorati al solo canale contributivo, a prescindere dall'età anagrafica, con l'innalzamento della soglia di uscita da 40 a 41 o 43 anni di contribuzione. Queste sono al momento le ipotesi, ma quelle più gettonate, insieme al blocco totale parziale di almeno un anno del recupero dell'inflazione sui trattamenti del pacchetto previdenziale che sarà inserito nel decreto sulla manovra. Un pacchetto che anticiperà la riforma organica vera e propria, destinata a vedere la luce tra la fine dell'anno e il mese di gennaio. Tra le opzioni alle quali stanno lavorando i tecnici del Ministero del Lavoro e del Tesoro spunta anche un contributo di solidarietà per gli iscritti ai fondi previdenziali con trattamenti privilegiati, gli elettrici, telefonici, dirigenti e via dicendo, che però allo stato attuale sarebbe solo oggetto di un'attenta valutazione. In ogni caso salirà da 40 a 41 o 43 anni il periodo di contribuzione necessario per l'uscita. Questa è l'ipotesi numero uno che si profila da qui a lunedì. Anche il Corriere titola su questo: più di 40 anni di contributi per la pensione. Tra l'altro c'è anche invece, ritorna l'idea della patrimoniale, una patrimoniale leggera. Il Corriere della Sera ipotizza che ci possa essere una patrimoniale del 2 per 1000 a patrimoni oltre il 1,5 milioni di euro, che servirebbe come condizione necessaria per ottenere il via libera da parte del sindacato del Partito Democratico a fare interventi sulle pensioni e sul mercato del lavoro, no? Questa quindi l'idea che potrebbe essere quella del governo Monti. Come si diceva, scontentare gli uni e scontentare gli altri, o scontentare gli uni per far passare delle misure che scontentino anche altri, in modo da far passare delle misure in cui tutti i partiti, insomma, si vedano costretti a far fronte a dei sacrifici rispetto a quelle che sono le loro ideologie, però questo per il bene comune, si spera. Allora, intanto, un passo in avanti è stato fatto ieri dai presidenti di Camera e Senato. I presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, hanno incontrato il neo ministro del welfare Elsa Fornero e hanno detto: anche noi da gennaio passiamo al sistema pensionistico contributivo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è un primo passo in avanti. Stop ai vitalizi dei parlamentari. Già da questa legislatura è innalzata l'età a 60 anni per la quale i parlamentari potranno prendere il vitalizio, anche coloro che lo avrebbero preso a giorni, a mesi, che magari a 50 anni o a 55 anni lo avrebbero preso, dovranno aspettare fino a 60 anni, non è che gli verrà tolto, però per 5 anni non lo prenderanno. E stop ai vitalizi dei parlamentari e passaggio al contributivo. Questo è il titolo dell'articolo del Sole a pagina 9. Deputati e senatori non andranno mai più in pensione prima dei 60 anni, perché ci sono dei baby pensionati anche lì. Su questo titolano un po' tutti i giornali, e tutti i giornali vanno a intervistare coloro che non ce la fanno. Beh, intanto Ilona Staller, la nostra ospite di qualche giorno fa, per 3 giorni ce l'ha fatta, avendo compiuto 60 anni il 26 novembre, dunque 3 giorni fa, è salva per 3 giorni, no? La riforma vale da adesso in poi. Lei invece a 60 anni ha preso la pensione, altrimenti l'avrebbe presa un po' più tardi. Mentre per 200 c'è il rinvio. Per esempio, tutti vanno a intervistare Irene Pivetti, ex presidente della Camera. 48 anni l'avrebbe presa, lei dice a 55 anni, secondo altri calcoli a 50 anni e quindi tra 2 anni. In ogni caso lei dice: non c'è problema, io vivo del mio. Sì, è vero, attendo una pensione da 6.203 euro lordi, 6.203 euro come ex presidente della Camera al mese, eh? Non sono per nulla scioccata, risponde serenissima il Corriere della Sera. È un segnale giusto di questi tempi, non si può fare la lagna. C'è Scilipoti che dice: bisogna anche andare a stanare quelli che per un giorno prendono il vitalizio, per un giorno in Parlamento. Questa è una vergogna effettivamente, che c'è gente che è stata un giorno in Parlamento e per questo prende la pensione, perché un tempo bastava un solo giorno. Ci sono i cosiddetti baby pensionati, Rino Piscitello e Antonio Martuscello, 4 legislature alle spalle, in pensione ben prima dei 50 anni, con quasi 8.000 euro di vitalizio al mese. Ma secondo Repubblica c'è già la protesta di deputati e senatori debuttanti, perché Carmelo Lopapa scrive su Repubblica che addirittura 246 deputati e 104 senatori, coloro che sono alla prima legislatura, si tratta di 350 parlamentari in tutto, anche se completeranno la legislatura, non avranno diritto ad alcun vitalizio o pensione. Perché? Perché per tutti loro da gennaio scatterà il sistema contributivo solo per l'ultimo anno di legislatura, quando ancora non avranno raggiunto dunque quel periodo che viene identificato in 4 anni, 6 mesi e un giorno, che col vecchio sistema avrebbe garantito loro il vitalizio al 65esimo anno di età. Argomento che è stato affrontato da capannelli di parlamentari, pare in rivolta ieri quando si è sparsa questa notizia. Secondo Repubblica, insomma, questi 350 parlamentari, anche finendo questa legislatura con il passaggio al contributivo per l'ultimo anno, non avrebbero la pensione con una sola legislatura. Dovrebbero essere, insomma, ricandidati, rieletti e farsi un anno che manca per arrivare al vitalizio. Ma, scrive lo Papa, i questori di Camera e Senato non escludono che venga studiata a giorni una norma transitoria che garantisca in qualche modo questi 350 parlamentari e che venga introdotta nella deliberazione finale degli uffici di presidenza congiunta di Camera e Senato. Tradotto, li salveranno. Io vi voglio segnalare invece, per quel che riguarda l'economia più ad ampio spettro, l'intervista che il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini ha fatto e fa oggi al presidente della Consob, Comitato di Vigilanza della Borsa. Vegas, intervistato, dice: attenzione, allarme banche, non c'è più liquidità. In Italia c'è un allarme banche, non circola più denaro, il rischio principale è che si diffonda il credit crunch. Rispetto a questo scenario, il fallimento di qualche banca diventa addirittura un rischio secondario. Bisogna agire o sarà troppo tardi. È un allarme accorato e durissimo quello che lancia il presidente della Consob Giuseppe Vegas. In un'intervista di un'intera pagina, poi a pagina 4, dice Vegas: il pericolo è che vada definitivamente in tilt il circuito finanza-economia reale. Sulle banche italiane c'è un problema che non può non preoccuparci tutti. Il nostro sistema creditizio, tra i suoi asset ha titoli di Stato italiani per 160 miliardi e titoli di Stato degli altri PIGS per 3 miliardi. A fronte di questo, le nostre banche hanno titoli tossici per una quota pari al 6,8% del patrimonio di vigilanza contro una media europea del 65%. Ma insomma, riguardo alle banche, al rischio della mancanza di denaro liquido, serve un salto di qualità. E chiede Giannini, sta dicendo che Draghi dovrebbe trasformare la BCE in un prestatore di ultima istanza, stampando moneta senza limiti? Sto dicendo, risponde Vegas, che anche su questi temi serve un approccio nuovo e adeguato alla fase. C'è a monte un problema di sovranità politica e di coordinamento delle politiche fiscali nazionali, ma c'è anche un problema di trattati e di statuti da rivedere. La Fed e la Banca d'Inghilterra stampano moneta, la BCE non può farlo. Questa disparità va risolta. Allora, o cambiamo il ruolo della BCE, oppure dobbiamo accettare il rischio che l'euro salti e ogni paese torni alla sua valuta nazionale. E riguardo a questo rischio, dice: certo, il rischio che la moneta unica non regga in queste condizioni esiste. Sarebbe un disastro ideale e materiale. Sta a Draghi evitarlo, insieme a Merkel, Sarkozy e ora anche Monti, che fa giustamente da terzo incomodo nel direttorio franco-tedesco. Insomma, questo il messaggio molto molto preciso del presidente della Consob. Tra l'altro, si studia sempre questa manovra che il 5 dicembre vedrà la luce e che secondo il Sole 24 Ore potrebbe essere di 20 miliardi. I dettagli li trovate a pagina 5, la manovra di Mario Monti, 20 miliardi, o se l'Europa chiederà meno sacrifici potrebbe essere di 13 miliardi. Intanto il governo Monti dice: noi saremo trasparenti per quel che riguarda il conflitto di interessi. Oggi però vi segnalo due articoli. Il primo è di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera: maxi stipendi e posti nei CDA, i nodi da sciogliere sulla squadra, pagina 11 del Corriere della Sera. Per esempio della vicenda di Filippo Patroni Griffi abbiamo già detto. Poi c'è Antonio Malaschini, fino a pochi mesi fa era segretario generale di Palazzo Madama, con una pensione ora che si gode di 500.000 euro l'anno. Oppure il sottosegretario alla salute Cardinale, radiologo palermitano, consorte di Anna Maria Palma Guarnier, coordinatrice del gabinetto del palermitano presidente Schifani. il viceministro dello sviluppo Mario Ciaccia, amministratore delegato di Banca Infrastrutture, controllata da Intesa San Paolo, di cui c'è il ministro, dove è lasciato il ministro dello sviluppo, Passera, il sottosegretario alla difesa Milone, consigliere di amministrazione dell'Ansaldo STS del gruppo Finmeccanica, che però al Fatto Quotidiano annuncia «mi dimetto oggi». Il Fatto Quotidiano si concentra proprio su Milone, mi manda Milone, questo è il titolo a pagina 3, c'è un'intervista al sottosegretario alla difesa e dice: guardi, scorrendo gli archivi giornalistici, lei è finito in numerose vicende giudiziarie, fu arrestato. E Milone dice: vecchie storie, finite poi con la mia riabilitazione, sono stato 5 anni presidente di una società di costruzioni, sono una persona per bene, mentre il PM aveva un'idea sua su quella gara. Dall'Ansaldo STS mi dimetto domattina, ci rimetto anche dal punto di vista economico. Anche alla domanda: lei aveva una società con Giuseppe Pizza, già leader della DC, poi fallita, che faceva? Non me lo ricordo, lei rivanga cose troppo vecchie, la ringrazio, arrivederci. Insomma, finisce così anche un po' bruscamente questa intervista, ma sulla questione conflitto di interessi oggi sia il Corriere che dice, per esempio: Monti, avevi detto che facevi pubblicare i redditi di tutti i ministri, a quando questa decisione? Questa è la domanda che pone Sergio Rizzo sul Corriere. Per la politica c'è da dire che il tema forse più interessante del giorno è proprio l'alleanza PDL-Lega, finita oppure no? Anche questo chiederemo a Luca Zaia, governatore del Veneto, che sarà nostro ospite alle 8:20. Tra l'altro, per quel che riguarda la Lega, c'è anche una grana sulla Padania, il quotidiano che scrive oggi il Corriere, potrebbe, coi conti in rosso, chiudere a giorni. Noi poi alle 8:30 parleremo di questa vicenda, di questo gesto di Lucio Magri, fondatore del Manifesto, che ha deciso di terminare la propria vita con il suicidio assistito in Svizzera. Oggi, come presumibilmente potevamo immaginare, ci sono tantissimi commenti. Il Manifesto titola «Lucio in the sky» e questo è il titolo che campeggia sulla foto di Lucio Magri. C'è anche un commento di Valentino Parlato: «Lucio Magri da molto tempo ci aveva comunicato la sua decisione di togliersi la vita, avevamo discusso, cercato di dissuaderlo perché avevamo bisogno di lui, della sua intelligenza, del suo impegno, non ci siamo riusciti. È stata una decisione di estrema razionalità, quasi 80 anni la perdita della compagna Mara era stata tremenda, la vita non era più vita». Il suicidio, scrive Parlato, è una fondamentale libertà della persona, chi è padrone della propria vita come ogni umano lo è. Può legittimamente e moralmente decidere di mettere la parola fine. Lucio è stato anima e mente della nostra vita. Il suicidio di Lucio non è stato un fatto personale di chiusura in se stesso, Lucio ne aveva ripetutamente parlato con noi e anche alla fine del percorso è stato accompagnato da Rossana Rossanda. Domani è un altro giorno, come si diceva nel 68, continuò le combat. E tra l'altro Valentino Parlato viene anche intervistato da Simonetta Fiori su Repubblica, Simonetta Fiori che ieri ha svelato questa notizia sul quotidiano Repubblica. Certo, Parlato dice: questo gesto è il prodotto di una razionalità estrema, ma non possiamo trascurare la cifra sentimentale, la scomparsa della moglie. Un gesto che lui voleva una morte pulita, voglio morire senza sfasciarmi sul selciato in qualche altro modo atroce, avrebbe voluto che passasse sotto silenzio, una cosa impossibile, ma certo io difendo il diritto al suicidio, se uno è padrone della vita è anche padrone della sua fine, nella Costituzione non c'è scritto che tutti i cittadini hanno il dovere di campare finché morte naturale non li fulmini. I commenti sono diversi, per esempio Vittorio Feltri ne scrive in prima pagina del Giornale: il suicidio assistito è giusto, ciò che conta è poter scegliere, questo è il titolo, con Vittorio Feltri che dopo aver ricordato la figura politica di Lucio Magri, il suo ruolo, anche il rapporto personale, scrive alla fine: immagino il rovello di Lucio, vado in Svizzera a farla finita, ma sì, vado, poi quando sarà arrivato lì la prima volta avrà avuto paura. Non di morire, questo no, ma del protocollo da rispettare per fare il salto nel nulla liberatorio. Sarà tornato sui suoi passi, ma il tormento non gli avrà dato tregua, cosicché altro viaggio in Svizzera. E avrà recuperato la forza di bere il calice della morte, mentre i medici lo idratavano per rendere meno aspro il sorso dell'addio. Non pietà, onore a Lucio Magri. Dunque, onore, dice Vittorio Feltri, per questa scelta. Mentre Marina Corradi, scrittrice, sul suo Avvenire, fa un commento dal titolo L'ultimo viaggio di Magri, naufragio della speranza, pagina 2, e si concentra proprio su questo viaggio passato che Magri fece in Svizzera, poi tornando indietro e quindi cambiando idea. E immagina Marina Corradi questo ultimo viaggio in treno col viaggiatore che tace, già così distante dalle parole spensierate di chi gli attorno. Non sappiamo del suo sbarcare in Svizzera nel freddo di novembre, né se c'era qualcuno ad aspettarlo. Ma quel dolore addosso fa più paura perfino della morte. Il lunedì chiama a Roma, ho deciso, dice. Poi una telefonata annuncia agli amici che davvero è finita. E ora forse qualcuno vorrà usare la storia di un uomo come una bandiera, come il vessillo di un diritto a morire. Diranno, sapete quanti vecchi sconosciuti, soli, magari malati, farebbero ciò che ha fatto Magri se la legge lo consentisse? Noi però continuiamo a credere che carità è aiutare a vivere e stare accanto a un uomo malato grave, al più solo dei vecchi in un ospizio, testimoniando con le nostre povere facce di uomini che non siamo soli e non siamo polvere. E di questa tragica storia ciò che ci colpisce non è tanto la determinazione dell'ultimo giorno, ma l'essere la volta precedente Magri tornato indietro. Come incapace di dire spontaneamente sì alla morte, come se questo contraddicesse una umana natura. Ci colpisce e ferisce quel giorno in cui quell'uomo tornò indietro, come cercando vanamente ancora. In ogni caso, di questo parleremo alle 8.30. Che dire? C'è spazio forse per l'ultima segnalazione? Chi lo sa? Da dove la prendiamo? Qui. Dal secolo XIX, ma tutti i giornali ne parlano, la figlia di Riina, Maria Concetta Riina, è stata eletta dal consiglio scolastico della scuola elementare di Corleone e in quella posizione dovrà anche valutare i progetti contro il pizzo. La figlia di Totò Riina. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo alle 8.23 minuti a parlare di attualità politica con il governatore del Veneto, Luca Zaia, della Lega. Governatore, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, intanto le chiedo, ma questa alleanza col PDL è finita o non è finita? Perché Berlusconi dice una cosa e Maroni un'altra. Beh, sostanzialmente noi siamo qui a confermare la nostra posizione, nel senso che siamo all'opposizione a livello nazionale e da qui alle prossime elezioni, come ha detto Maroni, si vedrà di capire se ci sono i presupposti per ricostruire un percorso assieme. Diciamo, si votasse tra 6 mesi, mettiamo che il governo Monti non dovesse farci, cioè, si votasse tra 6 mesi, la vede più facile o più difficile? Cioè PDL e Lega insieme? Guardi, questo non glielo so dire, perché poi queste sono partite di segreteria. Le posso garantire perché per quel che ci riguarda, in Regione del Veneto, Lega e PDL mantengono assolutamente salda l'alleanza e hanno ben chiaro che prima di tutto vengono gli impegni con i veneti. Però a livello nazionale al momento diciamo la Lega è l'opposizione e questo vuol dire che mentre Berlusconi sostiene il governo Monti non c'è alleanza, cioè possiamo dire così. Ma inviterei i cittadini, tutti, stakeholders, cittadini che comunque al mattino come me leggono i giornali per avere informazioni, di fare una brevissima riflessione. In Parlamento oggi Monti trova 3 posizioni ben distinte. Quella della Lega che si dichiara l'opposizione e dice che voterà di volta in volta, se portassero i nostri provvedimenti sul federalismo li votiamo sicuramente. Quella di Berlusconi che dice voterò solo all'insegna della continuità, quindi magari non voterò la patrimoniale o altre partite del genere, poi quella di Bersani che dice voterò all'insegna della discontinuità. Mi sa che il panorama è molto variegato. Senta, a proposito di riforme eccetera, lei ha citato la patrimoniale, cosa dovrebbe fare Monti secondo lei? Cosa la Lega è pronta a sostenere e cosa no? Il federalismo sì, ma riguardo a patrimoniale, pensioni, l'ICI? Guardi, io volerei un po' più alto, nel senso che noi siamo lì a difendere poi gli interessi del popolo, che sono quelli del pensionato che ha diritto dopo anni di lavoro di andare in pensione e di chi comunque ha sgobbato e si è spaccato la schiena per una vita per pagarsi la casa, quindi la prima casa, cioè il patrimonio di base e il valore di base che ognuno pensa di avere, in questo caso dobbiamo dire, oppure ha lavorato una vita per averlo. Però volando un po' più alto direi che Monti, al di là delle manovre ragioneristiche di capire dove tagliare e dove prelevare, perché c'è il rischio che prelevi sempre nella solita direzione, inviterei Monti a fare quello che i padri costituenti già nel 48 prevedevano, di dare un assetto federalista a questo paese. Questo paese ha 1.900 miliardi di debito pubblico perché a qualcuno è stato permesso di vivere ad Acicala e qualche altra comunità invece ha dovuto fare la formica per pagare i conti. Ma sui provvedimenti concreti tipo l'ICI lei la vedrebbe bene? No, mi sembra di capire, la casa non si tocca. Guardi, la casa è un bene sul quale ovviamente noi faremo difesa, ma vorrei risottolineare questo aspetto. Non basta una manovra di numeri, ma ci vuole una manovra anche di coraggio. Il capo dello Stato dice che il federalismo non è più una scelta ma è una necessità. Si abbia il coraggio di dar corso a queste dichiarazioni, nel senso che la vera assunzione di responsabilità passa attraverso l'adozione di costi standard. C'è una radiografia come costo standard, costa 50 euro a un paziente a livello nazionale, non è giusto che se costa 500 euro in qualche comunità italiana e le 450 euro in più vengono pagati dai cittadini, se li pagano direttamente i cittadini di quel territorio. Intanto però di ministri veneti non ce ne sono, lei ci è rimasto un po' male, cosa vuol dire che ha detto non abbiamo università private in Veneto? Cos'è il Monti che guarda solo alla Bocconi, alla Cattolica? Guardi, a me sembra chiaro che sotto un profilo squisitamente umano, poi uno quando fa il governo, se non ha particolari dettami dalla politica o di equilibri, chiama le persone delle quali si fida e che conosce. Evidentemente Monti ha fatto una scelta sotto il profilo della finanza, dei banchieri e delle università private. Oggi l'università statale, la scuola pubblica in mano totalmente a chi dirigeva o a chi comunque rappresenta la scuola privata. Quindi questo è un dato di fatto, ma lo diciamo soprattutto alla piazza, che è riuscita a fare tutto il contrario di tutto, protestare contro i banchieri, se non ricordo male, il 14 ottobre da indignati, e io ho condiviso questa protesta, e poi ritrovarsi dopo neanche un mese a protestare a favore dei banchieri. Cioè questo è il governo di banchieri e università private, lei dice? Beh, guardi, cioè non è che serve un premio Nobel per dirlo, cioè basta guardare il curriculum. Magari sicuramente le professionalità sono di elevatissimo spessore, però se noi italiani siamo abituati ad alte professionalità, oggi dobbiamo vedere i risultati, perché già un sondaggio di ieri dà un calo della fiducia degli italiani. Sembrava che dal 12 novembre dovesse esserci una maratona che avrebbe visto crollare lo spread di 150 punti, di vedere risolti tutti i problemi. Le cose stanno andando sempre nella direzione che avevamo lasciato il 12 di novembre. Senta, intanto domenica c'è questa cosa della Padania, ma lei crede veramente all'indipendenza della Padania? Perché c'è il Parlamento della Padania, anche Maroni ha detto questa è la strada, cioè ci crede veramente l'indipendenza della Padania? Guardi, noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando affinché, le sembrerà strano che glielo dica un leghista, affinché quello che diceva Einaudi nel presentare la Costituzione Repubblicana nel 1948, Einaudi è stato uno dei padri costituenti, disse che a ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E Einaudi diceva anche, visto che siamo nei 150 anni dell'Unità d'Italia, diceva anche che il risorgimento sarà concluso quando tutti avranno la loro autonomia. Quindi abbiamo una Costituzione che è veramente scritta da autentici federalisti. Noi siamo qui a combattere questa visione centralista della gestione di questo paese. Un conto è l'autonomia, un conto è, non so, l'indipendenza della Padania, cioè come Stato proprio. Ma guardi, cioè, questa realtà socio-economica, peraltro citata anche dalla Fondazione Agnelli, è una realtà che comunque esiste sotto il profilo economico. Deve avere la necessaria autonomia per dimostrare al paese intero che comunque con l'autonomia, che è anche responsabilità, si riesce a risolvere i problemi. La Padania, sta parlando della Padania, che quindi esiste, diciamo, formalmente. Ma guardi, gliel'ho già detto due volte, esiste una comunità che è quella del nord, che ha un profilo sociale ed economico che è riconosciuto a livello internazionale. E io mi fermo qua, se lei cerca di farmi dire altre cose non gliele posso dire perché non le penso. No, vabbè, ma la questione c'è, capire, l'autonomia è una cosa, ma autonomia cosa vuol dire? Fiscale, autonomia, autonomia. Guardi, anche il concetto di autonomia è un concetto planetario. I padri del federalismo a livello internazionale, visto e considerato che in questo paese noi amiamo sempre citare gli americani, dicono che il federalismo è un movimento centripeto, cioè unisce. Il non federalismo, cioè il non dare risposte, divide. A me sembra che questa frase chiarisca anche i dubbi, che non vuol dire essere sovversivi, vuol dire dare risposte alle comunità, che possono essere quelle venete piuttosto che quelle siciliane, quelle lombarde piuttosto che quelle calabresi. Ognuno deve avere l'autonomia che si spetta. L'ultima battuta, governatore, è questa. Prego. Lei ha visto due giorni fa Bossi, mi pare che ha detto. È vero che Bossi chiama tutti i giorni Berlusconi, come dice Berlusconi? Lei gliel'ha detto Bossi? Guardi, io non sono la segretaria di Bossi, non ho la ciupata. Questo no, però insomma ne avrà parlato, no? Beh, sfattiamo anche delle leggende metropolitane e evitiamo di milantare crediti. Il governatore del Veneto si occupa del Veneto, non delle telefonate che fa Bossi a Berlusconi e Berlusconi a Bossi. Queste sono partite della segretaria politica e io ho sempre amato nel fare il mio lavoro, nel rappresentare i cittadini, di dividere le due cose, anche perché penso che i cittadini debbano essere tutti rappresentati con serietà. La ringrazio, buona giornata. Grazie, Luca Zaia, governatore del Veneto, per essere stato con noi. Noi dopo la pubblicità invece parleremo, cambiando tema, di questa vicenda che ha coinvolto Lucio Magri, direttore fondatore del Manifesto, che ha deciso di andare in Svizzera per il suicidio assistito. Ha rilanciato il dibattito sul diritto di scegliere anche come morire. Sono le 8:39 minuti, cari ascoltatori. Eccoci qua a parlare allora di questa vicenda che ha coinvolto Lucio Magri, uno dei fondatori del Manifesto, che ha deciso di porre fine alla propria vita andando in Svizzera per fare quello che in quello stato è consentito, vale a dire il suicidio assistito. Non è che vogliamo entrare nella vicenda personalissima di Lucio Magri, è stata una sua scelta, ma insomma questo ha rilanciato il tema, un dibattito. Ne parliamo sul diritto di poter scegliere o meno anche di come terminare la propria vita. Ne parliamo con la senatrice Paola Binetti, che saluto dell'UDC. Buongiorno senatrice. Eccoci qua. Saluto anche Emilio Coveri. Emilio Coveri, buongiorno, è presidente di Exit Italia. Buongiorno Coveri. Buongiorno a tutti quanti. Intanto ci aiuta a capire cos'è il suicidio assistito tecnicamente e perché in Svizzera è legale. Beh, diciamo che è legale dal 1942 ed è una, chiamiamola così, una pratica dove regolamentata dall'articolo 115 del codice penale, dove una persona, un medico, può aiutare un paziente affetto da gravissima patologia, irreversibile, clinicamente accertata e senza possibilità di guarigione, che gli ha richiesto di porre fine alla sua vita e ai suoi giorni infami, che non possono più chiamarsi vita. Ora, questo medico può, a questo medico è consentito produrre una ricetta, richiedere ad una farmacia un composto chimico che si chiama pentobarbital di sodio, che è a base di curaro ed è anche praticamente un composto con del cloruro di potassio che può, diciamo, che dà poi la possibilità dell'arresto cardiaco nei 5 minuti successivi. E diciamo che questo è alla base di tutto, c'è che questo medico faccia questa operazione senza alcun modo egoistico, ovvero sia ne percepisca soldi o roba del genere. Certo, e poi deve essere ovviamente alla base una libera scelta Ma dell'individuo che vada. La cosa più importante che bisogna dire è che alla fine di tutto, quando ormai il paziente sarà defunto, il medico è tenuto a telefonare alla polizia e ad un medico legale, che dovranno chiudere praticamente la pratica, ovvero sia il medico legale constaterà che tutto è stato fatto regolarmente e la polizia chiuderà il caso, ovvero sia non perseguirà il medico. Questo dal punto di vista della legge. Lei, che Exit Italia, ricordiamo, è l'associazione per il diritto a una morte dignitosa, che riflessioni fa sulla storia, ripeto, personalissima, ma la storia di Lucio Magri è la storia di altre persone che sono andate in Svizzera per fare questa scelta? Magri è andato per conto suo, noi abbiamo avuto da un anno a questa parte, dopo che abbiamo fatto un accordo con la Dignitas di Zurigo e la Ex Internazionale di Berna, 18 dei nostri iscritti hanno potuto ottenere la morte che volevano loro e quando la volevano loro. Come diceva Indra Montanelli, da noi spetta a noi scegliere il come e quando della nostra morte. Cioè 18 italiani hanno già fatto questa 18 scelta. 18 dei nostri iscritti Exit Italia. Poi ho saputo anche attraverso le nostre due associazioni consorelle che fanno parte della World Federation, delle associazioni che lottano per il diritto ad una morte dignitosa nei loro paesi, che altri 30 italiani sono stati in Svizzera da loro, perché sono le uniche due associazioni a cui è consentito a aiutare gli stranieri. Mi mi faccia chiedere una considerazione etica, al di là della scelta appunto personale. Senatrice Binetti, lei che riflessioni fa sulla due tipi di considerazione. Sì. La prima nasce proprio dalla definizione che il dottor Coveri ha dato delle, come dire, i requisiti di accesso alla morte di questo tipo, a questo suicidio assistito. Lui ha parlato di una malattia grave, clinicamente accertata, irreversibile. Ora, nulla di tutto questo appartiene alla storia clinica di Lucio Magri, il quale era un paziente depresso, gravemente depresso, che aveva appena perduto la moglie e quindi in un certo senso aveva vissuto quello che noi chiamiamo semplicemente un lutto grave, che avrebbe dovuto e potuto elaborare in qualche modo, che è stato in Svizzera una volta ed è tornato indietro, una seconda volta ed è tornato indietro. Ora guardi, se noi dovessimo considerare il desiderio di morte del paziente depresso un equivalente di libera volontà e dovessimo accogliere il desiderio di morte del paziente depresso, noi ci troveremmo davanti a numeri ben più alti di quelli che sono stati citati, perché il desiderio di morte è sintomo di una patologia, non espressione di una libertà di decisione, sintomo di una patologia che tutti i pazienti depressi presenti. Però lo dice lei stesso, è andato 2 o 3 volte in Svizzera, poi ha receduto da questo proposito, certo, alla fine ha scelto con una scelta libera e non imposta da nessuno. Ascolti, lei crede davvero che un paziente depresso, gravemente depresso, è in grado di compiere una scelta libera? Perché noi non possiamo dimenticare che sulla nostra volontà, oltre alle decisioni che prendiamo e che ci sembra di poter prendere, c'è un'influenza enorme che giocano i nostri stati d'animo, le nostre passioni, questo senso di solitudine profonda. Io credo davvero, penso che se avesse trovato un diverso piano di accoglienza, probabilmente anche questa volta Lucio Magri sarebbe tornato indietro, ma non voglio comunque giudicare Lucio Magri, perché le vicende umane di questo tipo possono essere solo accolte. Ma dice forse quello che è mancato è stata un'assistenza Le voglio dire che mancavano condizioni di base. Lui non era un paziente terminale, cioè non era un paziente affetto da un tumore irreversibile, incurabile. Lui era un paziente depresso. Sì, una persona che ha deciso, però si può metterla così, ma vorrei Coveri da questo che replicasse la senatrice Binetti. Bisogna precisare una cosa. Va fatta una precisazione importante, anche perché la senatrice Binetti forse non è al corrente. Per accedere al suicidio assistito bisogna fare una richiesta particolare allegando e inviando le cartelle cliniche o dichiarazioni mediche. Il 40% delle richieste che vengono effettuate in un anno vengono rigettate dalla commissione medica che deve dare l'ok per il suicidio assistito. Quindi se non si ha una patologia grave non si viene accettati, si viene respinti, si viene mandati. Però no, la contestazione che faceva la senatrice Binetti è che una persona in uno stato di depressione non è una persona libera. Dice non è una persona che è libera nella sua scelta, proprio perché la sua scelta è condizionata dal fatto di avere una malattia di questo tipo. Noi abbiamo dei casi disperati di depressioni pazzesche che non consentono più alcun ritorno alla normalità. Quindi queste persone hanno fatto appello al suicidio assistito proprio perché andare avanti non si può più andare avanti e tornare indietro non si riesce più a tornare indietro, si rimane in uno stato depressivo tale che è più pazzesco ed è così talmente grave, forse ancora peggio che un tumore o una SLA o altre malattie spaventose. In ogni caso io vorrei ripartire da qui, dal senso della libertà, questo alla senatrice Binetti, ci siamo confrontati più volte su questo tema. Io gliela richiederò questa domanda, perché ancora una risposta chiara io non l'ho mai capita, cioè di fronte a una scelta libera, una decisione libera di poter concludere la propria vita come uno crede, perché ci si deve opporre a dire è una sua libera scelta nella quale non si può sindacare? Che tipo di opposizione si può fare a questo discorso che mi pare lineare? Allora, senatrice Binetti, è certo una persona depressa va aiutata, una persona malata va curata, va assistita, e su questo siamo tutti d'accordo, ma di fronte a una persona che dice voglio poter disporre della morte, che poi è una parte della vita, la parte finale, come e quando credo, in nome di che cosa bisogna dire no? in nome di due cose, secondo me, che sono abbastanza importanti. La prima è considerare che la libertà non è un'astrazione teorica, la libertà è una realtà concreta in cui noi viviamo e alla quale concorrono una serie di fattori di protezione che ci aiutano a sentirci più liberi e una serie di fattori di rischio che inevitabilmente ci condizionano. Nel caso specifico di Lucio Magri, i giornali hanno riportato la perdita della moglie, si parlava addirittura di, come dire, di una serie di difficoltà che lui potesse avere anche rispetto. E va bene, e questa è la sua condizione, allora, diciamo, che l'hanno portato nella disperazione, nella depressione. La seconda cosa è che se tu chiedi una cosa che in qualche modo è veramente, come dire, una di quelle scelte totalmente, radicalmente irreversibili. Sì. Io non posso affiancarti, cioè il tema vero è proprio, come dire, l'assistenza al suicidio, perché io se tu, come dire, ti butti, ce lo siamo detti forse qualche volta, sì, anche sì, queste non posso se io far vedo niente. Che ti stai per buttare dal Tevere, nel Tevere, dal ponte, io faccio di tutto. Cioè a lei quello che non piace non è tanto la scelta personale, ma che ci sia un medico che assista a questa scelta. Certamente, perché soprattutto in un caso specifico in cui un medico, davanti a una depressione, per quanto profonda, dispone, cerca di disporre in tutti i modi di tutti gli strumenti di farmacoterapia, di psicoterapia, di ergoterapia, di socioterapia, cioè è chiaro che non c'è, come dire, la pillola magica, non c'è la famosa pillola della felicità, il Prozac di una volta, no? Come si pensava che bastasse dare questa pillola per, come dire, fare delle iniezioni di felicità nelle persone. Evidentemente no, ci troviamo davanti a situazioni complesse, noi dobbiamo assumere la complessità, mi creda, basta pensare, e lei avrà forse letto un famoso libro di Berto sul male oscuro, cioè basta pensare quanto è frequente il desiderio di morte e quanto è impegnato ogni psichiatra, ogni psicoterapeuta nel combattere questo. No, cioè, ma è interessante questo punto, Coveri, le voglio chiedere questo, al di là della legge, mettiamo da parte la legge, dal punto di vista della legge svizzera, lì il suicidio assistito è garantito dalla legge, quindi punto, è a capo, non stiamo neanche a discutere. Quello che dice la senatrice Binetti è questo: mi spaventa l'idea di un medico che assiste proprio nel suicidio assistito e quindi dà la morte, certo per la volontà del paziente. Questo è cioè, lì si rompe, non so, quel dialogo tra paziente e medico che dovrebbe portare a preservare la vita. Allora, incominciamo a dire che la parola assisted suicide, come si viene tradotto in inglese, è molto sbagliato dire in italiano suicidio assistito. Loro in Svizzera lo chiamano morte volontaria assistita. Il discorso che un medico aiuti il paziente soltanto nell'atto di prescrivere la dose letale alla farmacia non significa nulla, ma soprattutto secondo me questi medici che aiutano questi pazienti sono degni di lode soltanto per un fatto, perché capiscono la malattia del malato, sì, del paziente, sì, e soprattutto aiutano a portare a compimento una volontà che il più delle volte non viene rispettata. Già solo il fatto di dire: se quello si sta buttando giù dal ponte, io perché devo andarlo a salvare? Ma perché devo andarlo a salvare se quello vuole morire? Io voglio capire una cosa: se io sto male e ho deciso di farla finita, sono io, a parte che io l'ho promesso a me stesso, io la fine di mio padre non la farò mai, né per la senatrice Binetti, né per Monsignor Tonini, né per voi di Rete 24. Io morirò per come deciderò io, come e quando vorrò io, e tutti quelli della Exit la pensano come me. Però il problema di poter soprattutto rispettare la volontà di una persona, quello che non è fatto per esempio nella legge truffa, quella del decreto Calabrò. Dobbiamo fare un testamento biologico e poi chi decide è un'altra persona, però, mi deve dire, e Buttiglione mi deve dire come devo morire io. Però, Coveri, quello che non accetta invece la senatrice Binetti è che ci sia un medico che senza quella figura. Dunque il medico è una persona è messa lì proprio soltanto proprio per avvalorare il fatto della questione così pratica, ovvero sia... Beh, ho capito, però senza quella figura in quel momento ci sarebbe, non sarebbe possibile, diciamo, fare la procedura. Diciamo. Cioè, il medico è tenuto aiuta il paziente soltanto nel fatto di prescrivere la medicina e il coso tale, se no a questo punto cosa andremo a comprare tutta la roba in farmacia, tanto barbital, andiamo lì, 150 euro, siamo a posto. Ma è lì che poi... la senatrice Binetti non le piace questo? No, senatrice, è questo il punto che non le piace? Io trovo che nessuna persona si iscrive alla facoltà di medicina per prescrivere una specie di miscellanea di pentotal e di cloruro di potassio per far morire un paziente. Io uso il pentotal per fare un'anestesia che aiuti il paziente ad addormentarsi e sicuramente faccio di tutto per sostenere il cuore del paziente. È la cultura stessa del medico che nasce orientata alla vita, al sostegno, al supporto, alle cure palliative, a tutto quello che vuole, ma non a generare una morte sapendo che questa morte nasce da una sofferenza e che è quella sofferenza che mi interpella perché io la curi. Io il tema è molto ampio, mi devo fermare qui. Dottor Coveri, so che Exit Italia ha anche un sito o c'è qualcosa? Sì, il sito è Exit, allora lo diciamo per i radioascoltatori, sì. www.exit-italia.it. In ogni caso, dove vabbè, ci sono tutti i dettagli. In ogni caso, vabbè, se volete scriverci 24 mattino e radio24.it, ovviamente se qualcuno vuole saperne di più, anche dell'associazione, perché no, noi siamo aperti a tutto. Intanto voglio ringraziare la senatrice Paola Binetti dell'UDC e Emilio Coveri, appunto presidente di Exit Italia. Il tema, come detto, è molto, molto profondo, molto interessante, non è neanche escluso che torneremo a parlarne come abbiamo fatto periodicamente. Intanto con Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni in redazione, il nostro Peter Bescapei, l'alpino in regia, vi diamo appuntamento a domattina. Intanto andate anche su Facebook, 24 mattino, a domani.